padre stesso con le stelle, vive musiche assai belle, ispirate solo da me. Può parlare con la luna, con due gatti innamorati, che gli sono affezionati e gelosi solo di me. Quante scale devo fare per salire fin lassù, ma per farmi accarezzare posso scalare su di. Yeah! Il mio amore sta in soffitta, non ho un becco d'un quattrino, ma soltanto a lui vicino trovo tanta felicità. Amor.